Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Le imprese incontrano case history di successo. Sharing Italy di Intesa San Paolo, di Alessandra Tedesco. Una puntata di Voci d'impresa speciale che dà il via ad un ciclo in cui accenderemo una luce su case history di successo. Aziende di varie dimensioni che raccontano le tappe fondamentali del proprio sviluppo. Lo spunto è venuto da Sharing Italy, manifestazione organizzata da Intesa San Paolo a Torino il 30 e il 31 marzo. Due giorni in cui più di 150 imprenditori hanno potuto incontrare pensatori, esperti, creativi e altri imprenditori di successo. Riuniti intorno a piccoli tavoli tematici, hanno lanciato spunti ed esempi concreti per lo sviluppo economico delle aziende e dunque del paese. Sei i temi, o meglio, le azioni per rilanciare l'impresa. Esplorare, ossia l'importanza di arrivare sui mercati esteri. Sperimentare, quindi le potenzialità del digital e delle nuove tecnologie. Capire, ossia un'analisi degli scenari di mercato. Comunicare, cioè lo storytelling come modo nuovo di raccontare le imprese. Cercare, ossia il ruolo delle startup. Valorizzare, un punto sulle pratiche di welfare più efficaci. Intorno a questi sei tavoli tematici, con incontri a rotazione di un'ora ciascuno, gli imprenditori e gli esperti hanno potuto confrontarsi, ipotizzando linee di sviluppo future. Parola chiave per il presente e il futuro delle aziende: internazionalizzazione e innovazione. Come spiega Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa San Paolo. Poter andare sui mercati per le piccole e medie imprese rappresenta un driver importantissimo per la tenuta del loro fatturato. Rappresenta un driver importantissimo, ce lo dice l'esperienza passata, durante gli anni della crisi, durante gli anni che vanno appunto dal 2008 al 2013. Solo le aziende che hanno saputo internazionalizzare e innovare, perché le due cose sono assolutamente interconnesse, sono riuscite a cambiare significativamente il passo della crescita del loro fatturato. Non è facile, perché bisogna dirlo, che internazionalizzarsi non è facile, perché internazionalizzarsi è possibile soltanto se si è distintivi e innovativi e quindi è strettamente interconnesso con una distintività di prodotto e quindi in questo caso qualità e innovazione fanno la differenza, ma sono ormai i due driver sui quali le aziende che non lo fanno o sono in una filiera e quindi lo fanno indirettamente perché c'è un capo filiera che per loro è già oggi internazionale e con un'innovazione di prodotto, perché magari è sì B2B2C o B2C direttamente, se no altrimenti probabilmente sono destinate a avere grandi difficoltà. Dunque è fondamentale per le imprese italiane riuscire a trovare sbocchi sui mercati internazionali. In passato c'è stata una certa resistenza delle imprese piccole e medie a fare rete per andare all'estero ammortizzando i costi. Negli ultimi anni le cose stanno cambiando, come racconta ancora Stefano Barrese. Gli stretti sono un ottimo esempio di come gli imprenditori in un ecosistema ben individuato, che è quello del distretto, estremamente specializzato, per esempio come abbiamo comunicato nell'ultimo rapporto, no? Pensiamo al Prosecco, dove nel Prosecco di Valdobbiadene, dove è quell'ecosistema territoriale che ha deciso di investire su una produzione particolare, ma creando intorno a quella produzione, cioè al Prosecco, un contesto che lo valorizzasse, addirittura da diventare il distretto stesso esempio di prodotto. Cioè non si parla del singolo prodotto, ma si parla del Prosecco di Valdobbiadene. Se gli ecosistemi funzionano, e quindi possono essere intorno a un'impresa, intorno a un territorio, in realtà tutto poi funziona. I distretti industriali sono dunque un modo per le aziende per fare rete, per utilizzare le sinergie. Un modello vincente che ha un fatturato di 550 miliardi di euro e che dal 2008 al 2015 ha aumentato il volume d'affari del 3,5%. A Sharing Italy gli imprenditori hanno potuto toccare con mano casi di successo. La LM Gianetti Special Parts è un'azienda che opera nel settore dell'automotive engineering e che ha progettato per un committente cinese una supercar elettrica con tecnologia innovativa presentata al Salone di Ginevra 2017. I consigli di Luisa Gianetti, manager della LM Gianetti, per portare la propria azienda all'estero. Puntare su degli elementi chiave che sono quelli che caratterizzano oggi l'impresa italiana, cioè quella di poter dare un valore aggiunto grazie alla propria creatività, alle proprie competenze e alla propria attenzione per alle esigenze del cliente. Questo è un po' quello che fa la differenza forse rispetto ad altre aziende anche europee che sono magari più rigide, meno flessibili e meno attente appunto al costruire il progetto su misura del cliente, quindi questo credo che sia un po' il valore aggiunto nostro e quello che dobbiamo veramente dare, spingere sul made in Italy, che vuol dire fare bene le cose, la creatività, la capacità di saper trovare i piani B in certe situazioni di emergenza, cosa che spesso non sanno fare altre aziende europee soprattutto, ma non solo europee, quindi il made in Italy credo voglia dire anche questo. Altro esempio di azienda italiana che ha sfondato sui mercati internazionali è la Mosaicoon, startup palermitana che è riuscita a crescere così tanto da essere un riferimento delle imprese tecnologiche in Europa. Come si fa a fare una scalata del genere? Lo spiega Ugo Parodi Giusino, fondatore di Mosaicoon. Allora, innanzitutto pensare in grande, per cui cercare da subito di darsi un obiettivo di essere globali, di essere internazionali. Adesso in realtà Mosaicoon anche in Asia con 3 uffici, per cui diciamo da sempre l'obiettivo è quello di crescere su una scala ampia, in qualche modo imporsi poi di essere innovativi e unici su una scala molto ampia, per cui se ci si dà questo obiettivo all'inizio in qualche modo si è forzati a seguirlo senza mai sedersi sul magari risultati che si raggiungono soprattutto magari all'inizio su un mercato più dimensionato, più locale, invece sempre avere questa voglia di crescere. Allora, innanzitutto i soldi sono fondamentali, trovare i finanziamenti per sviluppare, cioè innovazione vuol dire finanziamenti e questo è un passaggio obbligatorio. Poi in parallelo c'è secondo me un tema molto importante che è quello di cercare di creare una struttura che sia anche diciamo adeguata al progetto che si ha, perché spesso si è molto focalizzati magari sul prodotto e non sull'organizzazione. Quando un'azienda cresce ha anche bisogno di organizzazione, per cui le due cose vanno un po' di pari passo: finanziare l'innovazione e innovare nella struttura dell'azienda. Il consiglio può essere quello di essere molto curiosi, guardare il mercato e cercare di capire quali sono le componenti uniche del team o del progetto da portare avanti e da stressare in una scala globale dove magari ci sono dei competitor o delle cose similari che però non sono altrettanto uniche. Accanto all'internazionalizzazione c'è l'innovazione che fa crescere il fatturato delle aziende. Gli investimenti in nuove tecnologie sono fondamentali, precisa il responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa San Paolo, Stefano Barrese. Questo si collega con il 4.0, quindi con la rivoluzione industriale, quella che di fatto porta la digitalizzazione e l'automazione all'interno dei processi produttivi, il tema delle informazioni che i processi produttivi digitalizzati possono restituire all'imprenditore, e questo consente loro di poter aumentare efficacia e produttività del processo stesso. Quindi questi investimenti sono fondamentali. Ci vuole cultura, perché può essere sempre presente la tentazione di immaginarli come non necessari, come un qualcosa che magari è moda, invece in realtà non lo è, perché le aziende, confermo per l'ennesima volta, che queste cose le hanno fatte nel momento topico della crisi, oggi le trovi con fatturati che sono triplicati, con organici che sono raddoppiati. Cioè è la dimostrazione che investire e immaginare il futuro quando ancora è difficile poterlo toccare, è estremamente importante. Puntare sul digital vuol dire anche puntare sulla formazione costante di chi fa impresa. David Orban, fondatore di NSR, società che aiuta le imprese ad affrontare i cambiamenti. La formazione non è più una cosa che si fa all'università, poi si smette. Ognuno di noi deve imparare mezzi nuovi. Oggi viviamo in un mondo globalizzato dove la comunicazione e lo snellimento dei processi di produzione crea una efficienza e quindi potenziali economie di scala senza precedenti. Questi sono strumenti che non hanno barriere all'ingresso e quindi chiunque ad un qualunque livello di impresa può approfittarne. Al termine di questa 2 giorni di incontri con esperti e imprenditori esemplari, che bagaglio porta a casa chi ha partecipato a Sharing Italy? Ecco alcune testimonianze. Quello che ho notato è una crescita di attenzione anche da parte di imprenditori e di gente che lavora in aziende consolidate, una maggiore attenzione verso stimoli anche un po' più lontani nel tempo, un po' più arditi. Insomma, la parola chiave è cercare di non distrarsi, perché questo è un momento di cambiamenti paradigmatici e non una semplice crisi passeggera. Ho imparato a condividere molto anche con imprenditori che hanno una storia alle spalle molto lunga, molta esperienza, nel senso che sono dei momenti nei quali si aprono molto e dicono cose che spesso sono difficili anche da sentire in convegni, in altri momenti. Siamo una startup, quindi diciamo che è stato interessante vedere magari aziende più consolidate in che modo vedono una startup, ed è stato molto interessante vedere appunto come un'istituzione abbia capito che probabilmente le startup saranno il nuovo motore di quella che è questa economia 4.0 italiana. È stato interessante per me perché ho approfondito come si può approfondire con 40 minuti di presentazione e discussione il punto di vista specifico di una startup innovativa nel settore agricolo.